Audio WhatsApp. Allora, Michele Frullo, USB Trasporti Pubblici. Trasporto, tu dove lavori? In che deposito? Io sto al deposito di Torpagnotta, sono conducente e sono il referente sindacale dei trasporti USB. Ok, prima domanda. Allora, la continuità degli scioperi pensiamo che sia la migliore pratica per contrastare precettazioni, eliminazioni dei diritti, eccetera. E per rafforzare l'unità con i lavoratori di altre categorie e con l'udienza, avete delle idee, delle proposte, dei prossimi passi? Io penso che oggi, proprio perché si protesta anche per le limitazioni al diritto di sciopero, tutte quelle categorie che stanno sotto la 146-90 dovrebbero essere interessate a dover protestare contro queste limitazioni, perché è proprio queste limitazioni che non ci danno più la possibilità di garantirci i diritti sui posti di lavoro. Quindi, visto che siamo settori essenziali per la cittadinanza, questi settori dovrebbero rimanere pubblici e non privatizzati, perché in tutte le scuole, la sanità e il trasporto, il privato ha solo creato problematiche, scarsa qualità e non è la soluzione, perché logicamente versa dal profitto. Noi quindi chiediamo che tutte queste situazioni che stanno sotto la 146, legge più restrittiva a livello europeo, non c'è nessuno Stato a livello europeo che ha una legge così restrittiva, quindi chiediamo che venga rimossa. E siete per convergere con altri settori di lavoratori colpiti. Poi altra domanda, da diversi mesi durante gli scioperi nelle piazze che ci sono state, sia dei sindacati di base ma anche del sindacato confederale o di regime, che dir si voglia, è emersa forte la richiesta, diciamo, di un forte e vero sciopero generale per cacciare il governo Meloni. Ci sembra un filo conduttore. Ecco, secondo te quali sono i passi che il sindacato di base, oppure anche la stessa CGIL, può fare per arrivare a questo? Noi contro questo governo ci siamo già espressi e siamo pronti a fare uno sciopero generale. Purtroppo noi vediamo che i confederali non sono tanto per la quale, perché spesso li vediamo a braccetto col vario ministro o col governo, e quindi vediamo che questa situazione diventa veramente problematica, visto che loro non sono così decisi a voler mandare a casa questo governo. Noi non è che siamo amici di qualche altro governo, noi vogliamo un governo che veramente lavori per garantire i diritti alla parte più povera del paese. Ok, perfetto.